24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci qua ascoltatori, buongiorno, ben ritrovati alle 7:20 minuti, siamo in diretta 24 mattino in diretta fino alle 9, siamo anche su Twitter @AlinoMilan, mi trovate così, oppure @24mattino. Allora, oggi avremo ospite il sindaco di Verona, Flavio Tosi, per parlare di Lega e dintorni. E poi torneremo a discutere del fenomeno Beppe Grillo. Ho riospitato e avremo ospiti gli ospiti di ieri, l'onorevole Straquadagno e Massimo Bugani, capogruppo del Movimento 5 Stelle a Bologna. C'erano tante domande rimaste in sospeso, cercheremo di affrontarle oggi, questo più avanti, dalle 8:20. E allora da cosa iniziamo? Andiamo intanto a guardare i giornali in edicola. È martedì 17 aprile, intanto uno sguardo ai titoli d'apertura. Il Sole 24 Ore, così si paga l'IMU a giugno prima rata. Mentre la casa, le tasse. Beh, insomma, questo è il titolo principale per molti quotidiani. Per il Corriere della Sera, IMU e catasto, stretta sulla casa. Per il giornale, mazzata sulla casa, mentre tanti quotidiani apriranno con un titolo fotocopia: salta il fondo taglia tasse. Questa è l'apertura di Repubblica, questa è l'apertura della Stampa, proprio con le stesse parole. Il Messaggero aggiunge: salta ancora il fondo taglia tasse. Ma il concetto è uguale. Per Avvenire, nuovo fisco, stesso peso. Le aperture un po' diverse sono su Libero, colpo alla Lega, spariti i diamanti. O il Fatto Quotidiano, Formigoni perde i pezzi e viaggia a sbafo. Questo è il titolo di apertura. Mentre l'Unità mette una foto di Bossi e Formigoni che si abbracciano. Il titolo è La disfatta. Insomma, questi sono un po' i titoli di apertura dei giornali. Da cosa voglio partire però? Beh, da due notizie che sono di taglio diverso, ma riguardano due fatti giudiziari. Il primo riguarda la strage di Piazza della Loggia. Sapete che nel weekend, forse se siete stati attenti un po' alla lettura dei giornali, c'è stata di fatto l'assoluzione in appello. Insomma, dopo tanti anni non ci sono colpevoli per la strage di Piazza della Loggia dell'8 maggio 1974 a Brescia, 8 morti, 192 feriti. C'è in questa incredibile notizia, cioè la mancanza di giustizia dopo tanti anni, almeno una notizia che allevia un pochino il dolore, perché nella sentenza il giudice aveva condannato le parti civili, vale a dire le vittime, a pagare anche le spese processuali. Ecco, la buona notizia almeno è che questo non accadrà. Piazza della Loggia, le spese a carico dello Stato, così titola per esempio Repubblica pagina 23, ma è una notizia che trovate su tutti i giornali. Sul Corriere della Sera è messa così, per esempio: i parenti non pagheranno. Il governo ha deciso di non far pagare i familiari delle vittime di Piazza della Loggia per evitare che si aggiungesse al danno la beffa. Dopo le polemiche seguite dall'assoluzione, il premier Mario Monti, d'intesa col presidente della Repubblica Napolitano, è intervenuto disponendo che le spese processuali siano a carico del governo. Tra l'altro, su questo Vladimiro Zagrebelsky fa un commento che vi segnalo a pagina 33 della Stampa. Il titolo è: Verità e rispetto, il dovere degli stati verso le vittime. Scrive Zagrebelsky: ha suscitato emozione e perfino indignazione la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Brescia nella parte in cui, assolvendo gli imputati della strage di Piazza della Loggia, condanna i familiari delle vittime costituiti parte civile a pagare le spese processuali. La gravità del fatto oggetto del processo spiega la reazione e anche l'iniziativa del governo per porre rimedio a quello che è sentito come un aspetto particolarmente ingiusto della sentenza. Una prima impressione potrebbe collocare questa reazione esclusivamente sul piano delle sensibilità morali. Già se così fosse si tratterebbe di questione grave, ma vi è di più: rispetto per le vittime, qui sono vittime i familiari di coloro che vennero uccisi, è un dovere giuridico dello Stato che assume molte forme. Qui non si tratta di un fatto riducibile alla sua dimensione patrimoniale, ma del possibile conflitto con obblighi che lo Stato ha assunto ratificando trattati internazionali in materia di diritti umani fondamentali, Mi riferisco al Patto dei diritti civili delle Nazioni Unite e soprattutto alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Entrambi i trattati impongono agli Stati di proteggere la vita delle persone e di impedire che esse siano vittime di torture o di trattamenti inumani, e l'obbligo dello Stato si estende, dopo che fatti di quel genere si siano verificati, al dovere di svolgere indagini efficaci per identificare e punire i responsabili, assicurando alle vittime la possibilità di partecipare alle indagini, esserne informate e ricevere, se possibile, adeguata soddisfazione. E dunque, ecco, c'è da dire che, scrive Zagrebelsky, insomma, è stato rimediato a quello che era apparsa davvero una beffa, oltre al danno più grave, quello di una mancanza di giustizia dopo tanti anni, ma certo almeno su questo il governo ha deciso di porre rimedio. Mentre l'altra notizia, che proviene da un'aula di un tribunale, proviene da un paese europeo che è un po' lontano geograficamente, ma che ci è apparso vicino soprattutto quando ci fu la strage il 22 luglio scorso nell'isola di Utoya, a danno di 77 persone uccise da Anders Breivik, che ieri è comparso facendo un proprio show in tribunale alla prima udienza del processo, nel quale deve rispondere appunto di 77 omicidi. Durerà 10 settimane questo processo, dunque una rapidità che in Italia ci sogniamo peraltro. Se riconosciuto sano di mente rischia 21 anni, questa è una stranezza, il massimo della pena, 21 anni, è una stranezza certo che stride e che ha fatto storcere il naso a molti. Certo, 21 anni, se verrà condannato a 21 anni li farà tutti, ma sono 21 anni per 77 vite umane strappate così. E poi, forza, ditelo, che cosa vi ha suscitato, se l'avete visto in quelle immagini, entrato in aula di tribunale con un ghigno un po' sprezzante, quando gli hanno tolto le manette ha fatto questo saluto di estrema destra, lui dice l'ho mutuato dai templari, oggi c'è il professor Cardini sul Corriere della Sera che dice ma che templari, l'avrà letto sui libri quel saluto, i templari non l'avranno mai fatto, ma ormai c'è questa rielaborazione romantico-maniacale di tutto il mondo dei templari. Sta di fatto che, sprezzante, no? Quando gli hanno detto è disoccupato, gli ha detto il giudice, no, lo ha corretto, no, adesso sono uno scrittore. È apparso un po' imbalsito, racconta il Corriere della Sera con l'inviata Monica Ricci Sargentini da Oslo. Ha anche pianto Anders Breivik, sì, ha pianto, qualche lacrima, ma mica di commozione o di rispetto nei confronti delle vittime, giammai. Ha pianto quando hanno mostrato il video della pianificazione della sua follia, 77 morti, come se si fosse commosso per la capacità, la bravura che ha avuto per compiere questa strage. Ha detto anche ho ucciso per autodifesa. E beh, tutto questo porta Cristiano Gatti sul Giornale a fare un commento che più che un commento è uno sfogo durissimo. Noi condannati a non poterlo eliminare. Così a pagina 15 del Giornale, guardate già l'esordio dell'articolo. Va bene, demente, abbiamo capito, non vedevi l'ora di venirci a raccontare quanto sei eroe, quanto stai sopra la nostra meschinità di servi, di esibire il tuo superego. Va bene, demente, abbiamo capito che ti commuovi solo davanti al filmato del tuo manifesto politico, che sei dispiaciuto solo di non aver lavorato alla perfezione, limitando a 77 i cadaveri della tua giustizia antimarxista. Guardati in giro però, demente, pensa quanti genitori e fratelli, amici si sono dovuti sorbire queste tue nuove sventagliate assassine. Ti senti forte, demente? Non credi di dover almeno ringraziare queste basilari regole della civiltà che escludono la giustizia sommaria, che addirittura tolgono le manette e rispettano qualsiasi imputato, fosse pure la bestia più sanguinaria e fuori di testa, proprio come te? Pensa un po' a noi invece, in tutta questa parte del mondo siamo già condannati prima ancora di cominciare il processo, la nostra pena è veramente infernale, doverti stare a vedere e sentire tutti i giorni in televisione, anche questa è democrazia, o comunque uno dei suoi effetti e dei suoi costi, diffondere ovunque le fasi del processo senza nascondere niente. E insomma, certo ha suscitato molta rabbia, molta indignazione, soprattutto nei parenti delle vittime, non solo. l'apertura del processo a Anders Breivik, accusato di 77 omicidi in Norvegia, ma lui dice l'ho fatto per autodifesa. E allora tasse, eccoci qua, questo trovato sulle prime pagine dei giornali. Oggi il Sole 24 Ore vi racconta nei dettagli come si paga l'IMU. A giugno la prima rata, ci sono state delle modifiche, insomma si pagherà in tre rate, 16 giugno, 16 settembre, 16 dicembre, tanto che per molti il 16 diventerà un numero, una data incubo, almeno per qualche mese. E ieri c'è stata anche la modifica e confermata la revisione del catasto. E soprattutto però c'è stata quello che dà lo spunto per fare il titolo per molti giornali, è salta il fondo per ridurre le tasse. Nicola Barone a pagina 5 del Sole 24 Ore ci spiega di cosa si tratta. Ancora tarda serata era dato per certo e la sorpresa dell'ultima ora invece che il fondo per il taglio delle tasse non c'è. La delega uscita da Palazzo Chigi vede scomparire una novità del testo su cui erano in pochi a dubitare. Anche la tanto annunciata carbon tax, che è un altro elemento che ha fatto discutere, verrà rivista e corretta prima del suo approdo definitivo alle Camere. Ma il salto del fondo per ridurre le tasse è davvero una sorpresa, anche una sorpresa, una brutta, amara sorpresa per molti italiani. Nei corridoi, racconta Nicola Barone, si racconta di una discussione contrastata all'interno del Consiglio dei Ministri attorno alla norma che ha diviso i ministri tra alcuni propensi a fare il passo simbolico, altri decisamente più cauti sulla linea di apertura. E alla fine è prevalsa la linea della cautela: meglio non vendere la pelle dell'orso prima del tempo. Questa è la battuta che è corsa nel Consiglio dei Ministri, come dire, non diamo l'illusione agli italiani di poter tagliare le tasse e dunque accantoniamo questa proposta. Sta di fatto che oggi Monti vedrà i leader Alfano, Bersani e Casini. Nuovo vertice ABC a Palazzo Chigi. E di che si parlerà? Della riforma del mercato del lavoro, certo, di queste novità non positive. Certo, però, racconta Barbara Fiammeri, sempre a pagina 5 del Sole, che il premier Mario Monti dovrà anche parlare di come rilanciare la crescita. Per questo ieri ha fatto un vertice dopo il Consiglio dei Ministri con i ministri Passera, Giarda, Fornero, Grilli, Moavero, Patroni Griffi, Profumo. I ministri anche più coinvolti per quel che riguarda il rilancio della crescita in Italia. Pare che il menù che Monti vorrà proporre ai leader di partito sono internazionalizzazione delle imprese, rilancio della competitività, riforma del sistema degli incentivi e sblocco delle risorse destinate alle infrastrutture. Sta di fatto che qualcosa dovrà proporre per la crescita, altrimenti qui è solo tasse e l'appoggio politico, fa notare qualcuno, è anche sempre più labile, sempre più a rischio. Certo, ora vedrete sui giornali di oggi, vedrete la foto di Mario Monti in compagnia di un emiro, e nello specifico era l'emiro del Qatar. Trovate la foto sia sul Corriere della Sera sia su Repubblica, con Monti che stringe la mano all'emiro del Qatar. Altani, il nome in realtà è più lungo, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, numero uno della famiglia regnante del Qatar, fresco dell'acquisto per 650 milioni dall'Aga Khan della Costa Smeralda, dunque in Sardegna. E sarà che da qui ripartirà anche, tra virgolette, la crescita, tra virgolette, cioè da qui da che cosa? Dalle acquisizioni. E sì, perché Ettore Livini su Repubblica racconta di come lo shopping dell'emiro del Qatar sia pronto. Nel mirino ci sono Finmeccanica e Unicredit. D'altronde, sentite la storia del sceicco regnante, uno che segna un saldo attivo nel suo Qatar di 60 miliardi di dollari. Come dire, ha un po' di soldini da spendere, no? Grazie al suo tesoro fatto di gas e greggio, ovviamente. Un paese grande come mezza Lombardia, 60 miliardi di dollari d'attivo. ha comprato un po' tutto di recente, no? Si è comprato i grandi magazzini Harrods a Londra, gli studios hollywoodiani della Miramax, si è regalato una squadra di calcio, il Paris Saint-Germain, allenato da Carlo Ancelotti. Sfizi, ma non solo, pare che con il suo fondo dell'emiro del Qatar, il fondo dell'emiro del Qatar, il Qatar Investment Authority, può vantare davvero moltissimi miliardi a disposizione per fare acquisti e dunque per cercare di anche prendere acquisizioni, e racconta Repubblica, Finmeccanica e Unicredit potrebbero essere nel mirino. Questa pagina 9 di Repubblica, trovate l'analisi economica finanziaria di Ettore Livini. Ci salverà l'emiro del Qatar? Vabbè, una battuta questa, chiaramente, però potrebbe essere una delle soluzioni, l'emiro del Qatar pronto a fare affari in Italia. Intanto vi segnalo anche sul fronte economico finanziario, sul Sole 24 Ore, la prima intervista a un quotidiano italiano al neo presidente, direttore per la verità, del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, che dice dell'Italia in un'intervista ad Alessandro Merli e Mario Platero, che trovate a pagina 8, un'intera pagina. Bene l'Italia, con Monti ha riacquisito credibilità, sotto la leadership di Mario Monti ci sono molti cambiamenti, e ora puntiamo alla riforma del mercato del lavoro, dice, va approvata, il direttore del Fondo Monetario, in modo che le imprese e i datori di lavoro possano sentirsi più fiduciosi al momento di assumere. Inoltre speriamo che i negoziati col sindacato si concentrino sull'occupazione più che sugli aumenti salariali. Comunque siamo pienamente d'accordo con quello che il governo sta facendo e possiamo elogiare questi sforzi per introdurre dei cambiamenti. Così il direttore del Fondo Monetario Internazionale. E noi torneremo oggi a parlare della questione che racchiude un po' tutto, la politica, l'antipolitica, i partiti in crisi, Beppe Grillo che avanza col suo movimento e questo spaventa molto partiti politici. Beh, segnatevi questa, sembra un po' una barzelletta, ma in realtà è quello che hanno detto ieri i leader di partito dei più importanti partiti. Hanno detto che togliere il finanziamento ai partiti è un drammatico errore. Drammatico errore, cari cittadini, voi che avete fatto già questo drammatico errore una volta votando con in un referendum popolare per cancellare il finanziamento pubblico ai partiti, se pensate di voler togliere anche il rimborso elettorale ai partiti stessi, questo è un drammatico errore secondo i leader di partito Alfano, Bersani e Casini, anche perché questo favorirebbe le lobby che potrebbero impadronirsi dei partiti. Ora, uno legge i giornali che raccontano, adesso li racconterò, di inchieste a 360 gradi in cui faccendieri, lobbisti, personaggi di discutibili curricula, mettiamola così, pare facciano affari milionari con i partiti, e dice, ma come? Forse le lobby già ci sono. Che gravitano attorno al mondo dei partiti. Però, insomma, questa è la linea di Alfano, Bersani e Casini. Sarebbe un drammatico errore togliere rimborsi elettorali, perché a quel punto i partiti sarebbero esposti all'attacco delle lobby e degli affaristi. E beh, i partiti non rinunciano ai rimborsi, titolo al Secolo XIX, pagina 5, un tragico errore toglierci i finanziamenti a pagina 6. La Stampa è il titolo di apertura anche del Manifesto. Eccolo qui. Partitissimi come i tre moschettieri, Alfano, Bersani e Casini fanno muro insieme contro chi vuol cancellare i rimborsi elettorali. L'ABC della politica, titolo al Manifesto. Finanziateci. È messa così, fa urlare proprio vendetta. A proposito di lobby, dopo il traffico, allora ascolteremo per cercare di capire attraverso i giornali se queste lobby rischiano di avvicinare i partiti, o chissà se li hanno già avvicinati da un pezzo. E allora basta sfogliare i giornali per capire che è tutta un'inchiesta giudiziaria. Walter Lavitola è tornato in Italia dopo una latitanza di 6 mesi. È rientrato ieri mattina, leggo dall'articolo a pagina 14 del Corriere della Sera, dal titolo La Vitola voleva 5 milioni per tacere. Tra numerose accuse spicca ora una nuova di corruzione internazionale per un giro di tangenti pagate al governo di Panama per l'assegnazione di appalti ad aziende Finmeccanica e per la costruzione di 4 carceri. Questa è l'accusa della Procura di Napoli. Tra l'altro Rocco Cotroneo del Corriere della Sera ha fatto il viaggio dall'Argentina a Roma con Walter Lavitola, che a un certo punto in pieno volo Buenos Aires-Roma tira fuori una vaschetta di parmigiana di melanzane. Provala, provala, l'ha fatta un amico mio, è fantastica. C'ha già in mano il biglietto di ritorno. Ma come di ritorno? Chiede Rocco Cotroneo. Deve andare in carcere lei. Sì, c'ho il biglietto di ritorno, ma è tra 6 mesi. Guardi qua, ottobre 2012. Confido allora di aver chiarito tutto e di essere uscito dal carcere, me ne tornerò in Argentina. E poi dice, chissà com'è il carcere, dicono che si usa molto la tuta, ne ho portate 2. Chissà come sarà, spero che non esagerino a Fiumicino, le manette, i fotografi, boh. Chissà com'è essere arrestato. È stato accontentato ovviamente dopo qualche ora, nel senso che sapeva, consegnandosi e tornando in Italia, che sarebbe stato arrestato. Carlo Bonini su Repubblica racconta: voleva 5 milioni da Berlusconi, ecco la valigetta di tangenti al leader di Panama. Sarebbe un giro di tangenti, tra l'altro racconta tramite la testimonianza di Mauro Velocci, presidente del consorzio Svemark, la conoscenza di Valdavitola con Berlusconi risaliva a quando portava soldi cash a Craxi in Tunisia. Insomma, torna e ritorna l'attacco che coinvolge l'ex premier Berlusconi. Anche sull'altro fronte è rispuntato il bunga bunga, cari ascoltatori, dalle udienze, una delle udienze del processo a carico di Silvio Berlusconi, escono le testimonianze di queste ragazze, le ragazze che dicono soldi da Berlusconi, ma alcune di loro raccontano anche nei minimi particolari quello che è passato alla storia come la pratica del bunga bunga, che poi non si è capito bene cos'è, almeno dal punto di vista processuale. Ovviamente ci sono tante teorie varianti. L'articolo migliore è quello di Libero di Andrea Scaglia, pagina 11. Bunga bunga con la maschera di Ronaldinho, questo è il titolo. Ora, al di là di tutto, scrive Scaglia, perché qui c'è un processo con tanto di accuse pesanti, poco su cui scherzare, e però insomma la scena è irresistibile. La racconta Iman Fadil, spigliata modella 27enne di origine marocchina. Niente, anno 2010, cena conclusa, padrone di casa, invitati che si spostano giù nella saletta del bunga bunga, e c'è Iris Berardi, brasiliana, frequentatrice assidua, la quale si presenta agli ospiti in tacco, maglia rossonera e maschera di Ronaldinho. Poi comincia la performance. Vabbè, poi i dettagli. Ma insomma, torna prepotentemente il bunga bunga, tanto che il giornale in prima pagina, con il suo direttore Alessandro Sallusti, fa un editoriale dal titolo La vitola e ragazze oppio del popolo. Insomma, torna l'attacco concentrico nei confronti di Silvio Berlusconi. E diventa oro colato il racconto di una giovane procace e discutibile marocchina che ha testimoniato al processo Ruby. Dice di essere stata avvicinata da uno sconosciuto che gli ha chiesto di mettersi in contatto con Berlusconi. Il futuro del paese torna in mano a marocchine labili, avide di denaro e faccendieri come la vitola. Insomma, come dire, scandali come oppio del popolo, che così non ha tempo e voglia di soffermarsi a pensare sullo spread che risale. Tanto poi si vedrà. Questo Sallusti a parlare di una sorta di complottone mediatico. E poi insomma, ma devo chiudere perché ormai il tempo è sempre meno. De Gregorio, il senatore De Gregorio, per il quale viene chiesto l'arresto. L'accusa di essere passato dall'Italia dei Valori e poi il gruppo misto, non so, ha passato una decina di schieramenti, al PDL per soldi. E quindi tutti i dettagli li trovate a pagina 23 del Sole 24 Ore. Poi c'è Formigoni, che in pratica in un'intervista a Libero dice... torna all'insaputa. Questa è la frase proprio ormai che caratterizza i politici di oggi. Verificherò se effettivamente Dacco ha pagato i miei voli. Questo è l'esordio dell'intervista. Formigoni che dice: verificherò se mi hanno pagato dei voli. Se lo hanno fatto era mia insaputa, di fatto. Tanto che Ferruccio De Bortoli, direttore del Corriere della Sera, siccome la difesa di Formigoni è io facevo vacanze di gruppo, le faccio da 40 anni, se i giornalisti del Corriere che dicono che mi hanno pagato i biglietti non le fanno e vanno in vacanza da soli è perché sono degli sfigati. Ferruccio De Bortoli dice: guardi, i giornalisti Ferrarella e Guastella, autori degli articoli, non hanno fatto altro che il loro dovere, riportando con la cautela elementi dell'indagine che vanno presi per la loro natura con beneficio di inventario. Non sono né tristi né sfigati né malinconici, come dice lui, cioè Formigoni. A dimostrazione che non vi è nulla di personale contro il presidente Formigoni, vorremmo invitarlo a un confronto aperto al web, ripreso da Corriere TV nella nostra redazione in via Solferino, una sede che potrà apparire ai suoi occhi abituati alle distese assiro-babilonesi, ai celestiali panorami del suo palazzo, un po' angusta e retrò, ma gli assicuriamo che faremo di tutto per non intristirlo. Così il direttore del Corriere della Sera risponde a Formigoni. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:22 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Voglio salutare per parlare di politica e di Lega il sindaco di Verona, Flavio Tosi. Sindaco, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Senta, gli ultimi sviluppi sull'inchiesta parlano di diamanti, oro per l'ex tesoriere Belsito, Rosi Mauro, l'ex tesoriere Stiffoni, ma lei ci crede a queste cose? Perché sembrano un po' addirittura... Non lo so, aspettiamo di vedere le carte a questo punto, perché si leggono le accuse sui giornali. È una cosa che ha dell'incredibile, cioè, a sentirla raccontare è una cosa che è veramente del paradossale. A questo punto aspettiamo di vedere le carte. Una parte le verifiche le fa la stessa Lega con il senatore Stefani, il nuovo tesoriere, che fa le verifiche per conto suo, per conto quindi del movimento. E siccome poi gli atti giudiziari vengono depositati, da quelli si evince se sono stati comprati lingotti o diamanti oppure no e che fine hanno fatto. Quindi aspetterei serenamente e speriamo celermente di poter vedere le carte. Ma che effetto le fa? Non è certo la Lega che lei o che la base leghista conosce, no? Sentir parlare di diamanti e oro. No, è una cosa che fa rabbrividire, francamente. Però, ripeto, aspetto di vedere le carte perché è una roba talmente enorme che mi pare incredibile. Intanto però la pulizia annunciata da Maroni va avanti. Senta, ma è pulizia o sono epurazioni belle buone di diciamo bossiani antimaroniani? Ma direi che riguardo alle posizioni che sono emerse fino ad oggi, tutte persone per le quali il movimento ha chiesto un passo indietro, ottenendolo da parte di Enzo Bossi e dell'assessore Rizzi della regione Lombardia, non ottenendola da Rosi Mauro, che infatti è stata espulsa. Sono provvedimenti nei confronti di chi a vario titolo è stato coinvolto senza ancora nessun tipo di condanna, ma comunque con dei sospetti di comportamenti poco chiari, e giustamente la Lega, per tutelare la Lega stessa, ha chiesto un passo indietro, che non vuol dire che Monica Rizzi, Renzo Bossi o anche Rosi Mauro siano colpevoli, perché fino a prova contraria bisogna aspettare gli esiti di quello che sono i vari procedimenti in corso. Però è chiaro che il movimento, per continuare a definirsi diverso, a dimostrare di essere diverso e a far vedere che tiene all'onorabilità del movimento stesso, chiede un passo di lato, se così si può dire, a queste persone, per lasciare che le indagini facciano il loro corso in modo tale che la Lega non ne sia in alcun modo intaccata. E quindi non è un'operazione, è un'epurazione, ma è semplicemente un modo per far capire ai cittadini e ai elettori che la Lega realmente non vuole essere coinvolta in nessun modo in fatti che sono sottoposti alle indagini della magistratura, ma che comunque insomma sono odiosi da dover difendere come movimento, quindi il movimento ne prende le distanze, sì, in attesa poi che si faccia chiarezza. Quindi poi... per rivendicare una sorta di diversità della Lega, ma a questo punto, con quello che si legge, secondo lei si può ancora rivendicare da parte della Lega una noi non siamo come gli altri partiti? Beh, la Lega è l'unico movimento che, diversamente da praticamente tutti gli altri, perché se uno si va a guardare, io me le sono fatte stampare sia nell'UDC che nel PD che nel PDL, l'elenco degli indagati, di chi è stato rinviato a giudizio, dei condannati, sono pagine, pagine di persone, ma parliamo di parlamentari, persone anche di alto profilo, e la Lega è l'unico che ha chiesto di fare un passo indietro, e chi non ha fatto un passo indietro è stato allontanato dal movimento. Lo stesso segretario federale, pur non indagato, per cercare appunto di togliere la Lega da questa situazione, si è dimesso Umberto Bossi. Però voglio dire, quelli che effettivamente... La differenza sta in questo, nel comportamento del partito. Però i giornali fanno notare, quelli che hanno fatto un passo indietro, come l'assessore Rizzi in Regione Lombardia, sono i bossiani di ferro. Questo adesso magari lei dirà che non c'è questa divisione all'interno della Lega, però è abbastanza evidente. No, ma io non è che dico che c'è o non c'è la divisione. Il punto è che sono persone che per qualche motivo sono state coinvolte e sono coinvolte, salvo appunto la verifica della magistratura, in fatti spiacevoli che per il movimento rischiano appunto di gettare un'ombra, come diceva lei prima, no? Che la gente può dire la Lega non è diversa. Allora, proprio per dimostrare che siamo diversi, Maroni e il triunvirato che oggi guida la Lega non è che si metterà a fare differenze tra chi eventualmente la pensa in un modo e chi la pensa in un altro all'interno del movimento. Chi rischiasse di essere coinvolto in situazioni illecite, gli verrà chiesto lo stesso tipo di... Cioè, diciamo, tra chi si comporta bene o male, non tra chi la pensa in un modo o nell'altro. L'unica distinzione tra chi si comporta bene, tra chi si potrebbe essersi comportato male, perché ripeto, sì, sì, in attesa delle inchieste. Senta, a proposito di Maroni, è lui il futuro della Lega? Lei già in passato ha detto più volte, ha espresso parole di elogio per Maroni come possibile futuro anche della Lega. È lui o dovrebbe essere uno del Veneto magari? Ma secondo me la questione territoriale ha poco senso, perché se tutti cominciamo a dire deve essere il Veneto, il Lombardia, i lombardi dicono essere lombardo, gli emiliani dicono essere emiliani, i romagnoli dicono essere romagnoli, buonanotte, e allora dividiamo la Lega e la spacchiamo, cosa che magari qualcuno gli piacerebbe, ma non sarà. Il segretario federale, il nuovo segretario federale, deve essere semplicemente quello più capace, più bravo, che ha più consenso, quindi che porta più consenso al movimento, più accreditato e gradito rispetto ai cittadini e agli elettori. Secondo me Roberto Maroni rientra in pieno in questo identikit. Quindi Maroni, lei lo farebbe? Perché si dice anche Zaia, anche Tosi, insomma la Lega nuova, no? Le nuove leve. Secondo me deve essere la persona che le ho descritto prima. Secondo me è Roberto Maroni. Maroni. Senta, Umberto Bossi invece? Perché c'è anche questa ipotesi che si ricandidi. O è finita la Lega di Bossi? No, ma direi che Umberto Bossi, per quella che è stata l'evoluzione del movimento, nel senso che lui l'ha creato, perché Bossi inventa, perché è una sua idea quella nell'89 di mettere assieme le varie leghe che erano appunto divise sul territorio in più regioni, e lui nell'89 le mette assieme avendo l'intuizione geniale di fare la Lega Nord, e quindi resta il padre nobile del movimento, che ha dato tutto e anche se stesso, anche fisicamente purtroppo, per il movimento stesso, che resta una persona onesta ed indiscutibile, perché anche, tant'è che anche le indagini non lo stanno nemmeno sfiorando, perché tutti gli danno atto di questa sua onestà, onestà che è grandissima, che ha avuto anche nel dimettersi proprio per il bene della sua creatura della Lega. Però... e quindi secondo me il suo ruolo è quello, appunto il padre nobile del movimento, e quindi se si resti presidente del movimento mi pare la cosa più corretta. Sì, però diciamo non lo vede più come il nuovo segretario fedele, insomma quell'epoca è finita, quella Lega è finita, ecco. Beh, diciamo che è normale nel corso degli anni, per qualsiasi movimento, per qualsiasi leader, che prima o poi ci possa essere un avvicendamento, ovviamente stabilito dal Congresso federale, come, perché è giusto che sia l'Assemblea a stabilirlo, però è come se io pensassi di fare il sindaco fino a 80 anni, cioè che è normale che nel corso della Lega, l'ha detto chiaramente e l'ha sempre fatto, fra l'altro è praticato, che bisogna dare spazio ai giovani, alle nuove leve, al ricambio, come c'è nel mondo dell'impresa, come c'è nel mondo del lavoro, sì. Anche nella politica ci vuole ricambio, è normale che sia così. Ripeto, fermo restando la figura di Umberto Bossi come padre del movimento. La ringrazio, buona giornata al sindaco di Verona, Flavio Tosi, arrivederci. Della Lega ovviamente. Noi invece torniamo oggi, tra poco, dopo pubblicità e meteo, occuparci del caso Beppe Grillo. Ho voluto reinvitare l'onorevole Stracquadagno e Massimo Bugani, capogruppo a Bologna del Movimento 5 Stelle. Facciamo round 2, no? Abbiamo anche il Deng. No, scherzo, in maniera civile si confronteranno sulla politica, l'antipolitica, ma è davvero antipolitica o è politica vera quella di Beppe Grillo, i partiti in crisi, il finanziamento dei partiti che il Movimento 5 Stelle rifiuta, che i segretari dei maggiori partiti ieri hanno detto sarebbe un errore drammatico, cari cittadini, cari italiani, toglierci i rimborsi e il finanziamento pubblico. Drammatico sarebbe questo errore. 24 mattino. Eccoci qua, allora, alle 8:37 minuti ho voluto richiamare per parlare del fenomeno Beppe Grillo, dei partiti in crisi che sono marmellata, ieri ce l'ha definiti così, l'onorevole Giorgio Stracquadagno. Buongiorno, ben ritrovato onorevole. Buongiorno a lei. Tra poco ci sarà anche con noi Massimo Bugani del Movimento 5 Stelle, capogruppo a Bologna, l'abbiamo trovato. Bugani, buongiorno, ben ritrovato. Eccoci. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Eccoci qua. Allora, intanto, visto che riparliamo di Beppe Grillo, che ieri ha tuonato in uno dei suoi comizi che fa in tutta Italia, dicendo io cavalco l'onda e travolgerò tutti, in un'intervista che non è una vera e propria intervista al Quotidiano Nazionale. Beppe Grillo non fa interviste, fa per la stessa missione del giornalista Andrea Cangini, che l'ha intercettato, è un comizio nel quale cerco di fare anch'io delle domande. Vogliamo sentirlo un minuto di Beppe Grillo due giorni fa a Genova, un po' il Beppe Grillo pensiero, qualche pensiero buttato qua e là. Dunque, io sono arrivato qua su un camper, sto girando l'Italia su un camper che qualcuno mi ha pagato e non so chi è. Ma voi siete così sicuri che se pagassimo le tasse questo paese andrebbe bene? Siamo sicuri che se noi pagassimo il doppio a questo governo qua, il doppio, sai cosa succede se noi pagassimo il doppio a questo governo? Ruberebbero il doppio, avrebbero 3 miliardi di finanziamento pubblico. Mio nonno, tuo padre, hanno combattuto 100 anni per avere la scuola pubblica, la sanità pubblica, l'acqua pubblica, ce li facciamo portare via da un banchiere del cazzo qualsiasi? Questo omino della Bocconi, questo esorcista che fa il lavoro sporco, fa gli esorcismi alla rovescia, invece di esorcizzare il capitalismo, esorcizza le vittime del capitalismo. Guardate che è un uomo incredibile, è un contabile, uno più uno fa due, poi se questo uno più uno fa due comporta lo smaltimento dello Stato sociale, lui fa uno più uno uguale a due. Questo allora Beppe Grillo. Allora Massimo Bugani, ci eravamo lasciati con qualche domanda. La prima, credo che Stracquadagno ieri chiedesse come vi finanziate, visto che non credeva Stracquadagno all'idea ci finanziamo con il movimento, con i sostenitori. Come vi si finanzia il Movimento 5 Stelle? Assolutamente, intanto vi ringrazio per avermi concesso la possibilità di dare questa replica. Ma niente, il signor Stracquadagno parlava perché queste campagne elettorali costano 300.000 euro simili ed effettivamente per i partiti a Bologna sono costate queste cifre, si è arrivati a questi valori. Noi a Bologna abbiamo speso 5.125 euro, cioè questa è la spesa finale della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle Bologna, che vedeva me come candidato sindaco. Sono tutti soldi. Cioè, non avete messo un manifesto? No, i manifesti li abbiamo messi, abbiamo speso 1.200 euro ed erano i manifesti che negli spazi a noi adibiti, quindi non abbiamo messo nessun manifesto abusivo, quindi sì, mettendoli solo dove il comune ci garantiva gli spazi, questa era la cifra massima che si poteva spendere. Che ne so, un ufficio non ce l'avevate in affitto, vabbè, comunque questa è la cifra finale, 5.000. E la cosa curiosa è che al banchetto che abbiamo fatto durante il comizio di Beppe Grillo in piazza, sì, una settimana prima del voto, abbiamo raccolto 4.200 euro. Però le chiedo questo invece, nelle varie manifestazioni, nei vari comizi che Beppe Grillo sta facendo in tutta Italia, sì, ci saranno dei costi un po' più alti? No, perché? No. Ma comunque, cioè la domanda, come si finanzia il Movimento 5 Stelle, lei risponde con i contributi dei... Contributi dei cittadini, e poi noi eletti abbiamo un piccolo stipendio, in comune a Bologna ad esempio abbiamo uno stipendio che si gira intorno ai 1500 euro prendendo i gettoni, e il resto... ma il movimento è assolutamente volontario. Volontario, allora onorevole Straguadagno, così si finanzia il Movimento 5 Stelle, così dice, questo ci dice Bugani. Guardi, non voglio insistere su questa polemica, ma una piccola bugia Bugani l'ha appena detta. Cioè? Quando ha detto non un manifesto è stato fisso fuori dagli spazi, sul suo stesso blog elettorale c'è scritto che lui ha ricevuto un verbale per un manifesto affisso fuori dagli spazi e si augurava che la stessa attenzione che i vigili urbani di Bologna avevano dedicato a lui la dedicassero a tutti gli altri candidati che appendevano fuori dagli spazi, cosa assolutamente sacrosanta, questa cosa che lui si augurava. Ma se lui avesse detto abbiamo ricevuto un verbale per un solo manifesto affisso fuori dagli spazi, avrebbe avuto un po' più di capito, Straguadagno insomma va a fare, però Straguadagno mi permetta, non è un po' adesso a vedere le pagliuzze negli occhi, mi ha attribuito di aver detto che una campagna elettorale costa 300.000 euro. Io non ho mai detto questo. Io ho detto che volantini, manifesti, comizi costano. Hanno dei costi che sono dovuti al fatto che il palco lo vogliamo pagare a chi lo ha montato o pensiamo che ce lo montiamo in proprio, visto che non possiamo farlo perché ci sono norme di sicurezza o altro. L'impianto audio ce lo portiamo, ne abbiamo comprato uno e ce lo portiamo col camion, costa caro anche quello. Sì, ma Bugani dice che è tutto pagato dal movimento. Cioè ho capito, ma in 5.000 euro non ci sta neanche il comizio che il 7 maggio Beppe Grillo ha tenuto a Bologna. Vabbè, però dobbiamo mettere in dubbio il fatto che sia costata 5.000, non so, io non vorrei andare in questa, in questa strada. Perché piccole bugie un po' sistematiche a stillicidio dette in cui è la tesi per cui noi siamo buoni, bravi, santi e sappiamo fare le cose e gli altri sono dei farabutti. Ecco, mi interessa questo, cioè voi vi ponete, Bugani dice Straguadagno, come eccoli qua quelli che spazzeranno via l'onda con un'onda, come dice Beppe Grillo in questa intervista oggi al Quotidiano Nazionale, noi siamo i buoni, puliti, questi partiti politici moriranno, scompariranno tutti perché eccoci qua, siamo noi i salvatori da un certo punto. A me dispiace perché Straguadagno fa un brutto gioco e purtroppo capisco che la politica si muove in questo campo e questo è quello a cui ci dobbiamo adattare, soprattutto se ci si apriranno davvero le porte del Parlamento. Però quando io parlo di manifesti, lui mi fa un regalo parlando di quello, perché io proprio, siccome un ragazzo sbagliò una posizione di un manifesto, voglio ricordare che candidato di Lega PDL a centinaia di manifesti abusivi, io lo segnalai io stesso ai vigili urbani dicendo guardate abbiamo sbagliato a mettere un manifesto, quindi mi fa un regalo proprio, me la serve su un piatto d'argento. E poi mi dispiace che continui a punticchiare su questa cosa dei soldi, cioè le nostre spese sono tutte dichiarate, è vero che il palco ha un costo, noi abbiamo preso un palco minimale, abbiamo pagato 1.512 euro, cioè non si può continuare a fare politica dicendo cose di cui non si è certi per provare a infangare l'avversario, che in questo momento sono io, quando è in TV con altri politici sono altri. Le cose bisogna documentarsi e dirle quando si è certi, quando non si è certi si fanno delle brutte figure e io non sono qui a fare il professorino, a dire noi siamo i migliori, noi vi travolgeremo. Noi facciamo così, se voi riuscite a confutare quello che noi diciamo vi stringiamo la mano, ma non ci riuscite perché noi diciamo la verità. Allora se voi vi adattate a questa linea probabilmente recupererete terreno e forse consentirete al Movimento 5 Stelle di non avanzare. Se voi continuerete su questa linea invece, cioè la demonizzazione, però bello, noi diciamo la verità, è bello, sa anche lei che la verità in politica è opinabile, ma da qui no, voglio vabbè, ma su questo è inconfutabile, cioè quello che dico io lo posso certificare. Ah beh no, questa sì, questa dei conti sì, del fatto che se lei dice abbia speso questo ci saranno le fatture. Comunque da qui voglio ripartire tra un attimo dopo le informazioni sul traffico, perché ieri io ho sentito partirò da questo Straguadagno con lei, una barzelletta, ho sentito la barzelletta che se i tre segretari ABC tagliassero come audio e mandassero alla settimana enigmistica, insomma farebbero anche dei bei soldi, quella che il finanziamento è fondamentale perché altrimenti se no le lobby assalgono i partiti, come se adesso invece a leggere i giornali ne sono assolutamente scevre da questo assalto. Allora, onorevole Stracquaragno, sul finanziamento ai partiti è una barzelletta che mi sono inventato io o non è una barzelletta l'idea, se togliamo il finanziamento ai partiti ci sono le lobby che assalgono i partiti, poi uno legge di faccendieri, affaristi, diamanti, tesorieri, viaggi, o no? Ma lei ha letto ieri le mie dichiarazioni su questo? No, su questo non mi sono documentato, me ne dica che... Ha fatto molto ho fatto male, perché... mi dica. Visto che mi aveva invitato a trasmissione, pensavo che l'avesse letta, le hanno riportate anche alcuni giornali. Io ho detto basta con questo sistema di finanziamento dei partiti e ho detto che non voterò nessuna legge che riguardi solo i controlli se non metterà in discussione anche la questione delle entità e delle modalità. Punto. Quindi io ho polemizzato duramente con quel comunicato che definirei per certi versi demenziale, quando si dice che la situazione sarebbe drammatica se non ricevessero più il finanziamento pubblico. E ho avuto anche una polemica privata su questo, sui conti del mio partito con uno dei responsabili dell'amministrazione, subito dopo questo manifesto, dove mi ha accusato, come dire, di aver ceduto. Però quindi, la sua linea è... Non io è... non prendo, ho capito. No, certo, non bene, è, non è la linea. Abbandonare il mio partito per no, questo no. O è meglio che io, come dire, tenti una battaglia dall'interno? L'ho già detto, l'ho anche dichiarato in altre situazioni, in altre trasmissioni, o ci sarà alle prossime elezioni un soggetto politico che dà una risposta seria e convincente sui veri problemi dell'Italia, che sono l'eccesso di debito pubblico, l'eccesso di spesa pubblica, l'eccesso di proprietà pubblica e l'eccesso di tasse, o altrimenti io non mi ricandido perché non faccio di mestiere il politico, non so se è chiaro. Sì, è chiarissimo. Quindi, quindi lei sta mettendo in dubbio la sua ricandidatura, dice non è detto. No, ma io no, guarda. No, dice se non, l'ha detto lei, se non Bugani, c'è un soggetto comunque, politico. Bugani, mi perdoni, Bugani ha scritto di aver ricevuto il verbale di accertata violazione sì. in materia di disciplina. Ma sì, ma l'ha denunciato lui, ma non stiamo a fare una battaglia per un manifesto. Non voglio dare i dettagli. Io quello che non sopporto da nessuno, ma letteralmente da nessuno, è il noi diciamo la verità. Perché questo nella storia, chiunque l'ha affermato poi è andato su una deriva che diventa sempre... Ma diceva sul fatto delle spese la verità. Comunque fatemi sentire un ascoltatore, 800 24 00 24, Vittorio da Modena. Tra l'altro ci aveva chiamato anche ieri, noi l'abbiamo richiamato. Vittorio, buongiorno. Vittorio, ci sente? No, non ci sente, la linea è caduta. Ci aveva chiamato, tra l'altro noi abbiamo appurato Bugani, Vittorio Ballestrazzi da Modena, che dice: sono un ex consigliere del Movimento 5 Stelle, sono stato espulso con una raccomandata da Beppe Grillo. Ci sono state, visto che si parla tanto di Lega di questi tempi, Bugani, ci sono state delle quelle che qualcuno ha definito delle vere e proprie epurazioni in maniera abbastanza spiccia all'interno del Movimento 5 Stelle, di chi non era in linea con Beppe Grillo, grazie, arrivederci, se ne vada. No, ma il caso di Ballestrazzi, curioso che abbia chiamato, ma è significativo ed è importante spiegare bene come sono andate le cose, nel senso che ovviamente per questo signore si tratta di espulsione, in realtà è la dimostrazione di quanto la rete sia effettivamente forte, nel senso che nel nostro movimento, io stesso ho fatto dei video e firmato un foglio in bianco in cui dico che qualora le mie idee, il mio pensiero dovesse andare in controtendenza rispetto a quello che è il pensiero dell'Assemblea e del Movimento 5 Stelle di Bologna, di quello che decide la rete di Bologna del Movimento 5 Stelle, darei immediatamente le dimissioni. Quando questo cioè dimissioni in bianco? Dimissioni in bianco, nel senso che io sono... Stracquadagno, faccio una battaglia su questo! Il paese in cui anche il ministro Fornero critica... Io sono un portavoce della rete di Bologna, del Movimento 5 Stelle. No, ma interessante. Il signor Ballestrazzi purtroppo si è trovato con la rete di Modena che contestava... Tra l'altro è caduta la linea, abbiamo recuperato, però signor Vittorio Ballestrazzi, non abbiamo adesso tempo perché abbiamo un minuto. Guadagno vuol fare una battaglia su quello. Le piace l'idea delle dimissioni in bianco? Personalmente preferirei che in un partito, se c'è qualcuno che non è d'accordo, possa discutere. francamente. Io questa è la visione che ho della politica. Non ho detto, io ho detto poi che se alla resa dei conti non mi, il mio livello di dissenso è tale da non convincermi l'offerta politica del partito, io non mi ci candido. Ma non che mi arriva la raccomandata a casa e mi dice: ah, sei contro l'assemblea. Cioè ha un qualcosa di misto tra un certo populismo di tipo fascista e un certo metodo di tipo leninista che a me non piace, come non mi piace quello che ha detto ieri Bugani, ma non perché l'abbia detto, si è in contraddittorio con lui, quando ha detto: ah, guardi, sui programmi politici per adesso parla solo Beppe Grillo. Ma che discorsi sono? Sì. Ma credo che la rete discuta, hanno questa discussione, questo modo di discutere in rete, hanno un blog, si confrontano le idee e fanno partire le idee così. In ogni caso, se ci sarà ancora un'opportunità, io vi richiamerò, perché è interessante questo dibattito con il Beppe Grillo, il movimento che avanza, l'onorevole Stracquadagno. Vi ringrazio per essere stati con noi. Massimo Bugani, ancora ricordo, il capogruppo a Bologna del Movimento 5 Stelle, e Stracquadagno. Che dire, ci ritroviamo alla prossima. Noi siamo qui e ci ritroviamo domattina alle 7:20.